fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo nuovamente in diretta, ma velocissimi, perché questa sposa deve prendere il pullman e andare, vero? La limousine, scusa, non lo dico più, La limousine, ragazze, wow. Vi trattate bene. Certo. Da dove venite? Offanengo, famosissimo posto. Ridente località Cremona, provincia di Cremona. Quella vicino a Crema. Come ti chiami, sposa? Serena, ma? Valentina. Serena Valentina, ecco, ricordiamo la nostra amica Valentina. Non dimentichiamoci di Valentina, ma era Serena, ma non troppo, giusto? Sì, no. Serena lo dice al meteo. Ah, giusto? Serena lo dice al meteo, esatto, giusto. Ma abbiamo qui Valentina, Serena. Sì. Sai che Valentina per tutta sera ha spaccato in questo locale, certo. Ma spacca sempre Valentina? Non avevi dubbi, vero? No. La vostra è una coppiata vincente, secondo me. Pensi che è mia cognata? È tua cognata? Sì. Ma quindi voi uscite assieme? Sì. Da un po', fate le matte? La prima volta. No, beh. Cioè, hai quasi preferito stare con la cognata che con tuo futuro marito, praticamente? No, stasera era proibito. Stasera? Era proibito. No, certo, ovviamente. No, però in generale preferisci uscire con la Valentina? Tutti insieme appassionatamente. Sì, una cosa proprio, sì, una mucchiata, sì. Una cosa bellissima, mi piace questa cosa. Un'orgia. Ricordiamo che Valentina ha delle frasi ad hoc. Che interviene sempre nel momento migliore. Giusto, Vale? Giusto. Fantastica. Ma ricordiamo un'altra cosa. Valentina è single, sposata? Sono sposata. Quindi tutti gli abitanti del convento di stasera sono rimasti tristi per questa cosa? Abbastanza? Non tutti, però. Però una buona parte. Intanto le amiche sono minacciano. Mi stanno dicendo di salutare Ricky, che è il moroso della mia amica. Ah, salutiamo. Ciao, Ricky. Ma che Ricky? Ma Ricky Martin? Che fa? Ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando in diretta, veramente. Allora salutiamo le amiche. Ricky! Vai, grande Ricky. Grandissimo. Ricky! E allora vai, saluta anche le amiche che sono lì fuori. Saluta tutte. Chiara, Martina, Olimpia, l'altra Chiara, Sabrina, mia sorella. Deborah, magari. Deborah. Ma che bello. Ma che bello, ma salutiamo Ricky. Cosa c'ha Ricky? Ti sta scrivendo anche? Ma Ricky? Cosa scrive Ricky? È arrivato un messaggio in diretta da Ricky che dice: è scritto Martina. Ciao, orto mio. Orto mio. Orto mio. Non voglio sapere. Ricordiamo che fra i vari ortaggi c'è un tubero che interessa molti maschi. Tu sai cos'è il tubero? Passiamo la parola alla sposa. Ecco, fra i vari ortaggi, che ortaggio può interessare ai maschietti che ci stanno ascoltando in questo momento? Ortaggio? Sì, ortaggio. Non è una parolaccia, L'asparago? È un tubero? Sicuramente l'asparago è quello che interessa a tutti i maschietti che ci stanno ascoltando in questo momento. Tu hai portato l'asparago? L'hai portato? No. Hai portato qualcos'altro? Anziché l'asparago, cosa ti sei portata dietro, che di solito... Che roba? Attenzione, è fuori uso la... Sì. Serena, sono le 3 di notte, non è che vuoi prendere. Effettivamente fare questi quiz così difficili a quest'ora della notte. Ecco, chiediamo a Valentina che si... Brilla. Valentina sicuramente saprà la risposta. Qual è l'ortaggio misterioso che piace tanto ai maschietti? La patata, grandissima. Ecco, anche Serena si è commossa, ha detto: cavoli, grazie, mi hai dato questo aiuto, non pensavo. Tra l'altro vi avevo dato anche un indizio che te la sei portata dietro, cioè nel senso... Era anche quello l'indizio utile per indovinare, ma non ci sei riuscito lo stesso. Sono fuori fase. Intanto le amiche scalpitano perché probabilmente dobbiamo andare. Sì, e se no lo sparago qua se ne va anche. Ma stai serena. Stai serena, Lo dice al meteo. Bellissimo lo slogan della seta, Serena lo dice al meteo. Bello. È una frase che avete inventato voi? Allora, vabbè, lei è serena, io non nel troppo. Contesto, no, io sono serenissima, cioè serenissima. Sì, si vede che sei serenissima. E niente, praticamente, vabbè, era nel mio gergo, stai serena, e per cui questa maglietta è arrivata dalla mia dalla tua testa e metà dall'altra amica. Ecco, perfetto, mi piacciono queste tue amiche che sono state abbastanza clemente, avete visto i maschietti come erano vestiti stasera, vero? Sì, sì. Quello da cheerleading, quello sì, da... ma parliamone. Improponibili. Va bene. Voi avete parliamone. Visto solo il meglio. Ok, perfetto, siamo stati fortunati allora. Va bene, Serena, vuoi salutare anche tuo futuro marito? Vuoi sì, dirgli solo... ciao Simone, e ciao basta. Amore. Mi piace, mi piace. L'amore della zia. Vuoi salutare tuo fratello? No, vabbè, ciao, ti saluto domani. Va bene, ok, mi piace l'entusiasmo. Va bene, ok, salutiamo le amiche di Ofanengo, c'è la limousine che ci aspetta. Grazie. Ciao ragazze, ciao. Ciao. Ciao.